Non contraddirti. Parla di soldi, ma non nei primi 10 minuti. Metti tutto in positivo, anche le critiche. Vestiti e preparati per l'occasione. Arriva puntuale. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Giovedì 8 febbraio 2007. Mi hanno chiamato ieri mattina alle 10, dicendo: proprio oggi facciamo colloqui. Questa volta il lavoro è per una ditta che produce beni inutili e vende solo a casa della gente, non in negozio. È a tempo indeterminato e consiste principalmente nel richiamare gente che ha lasciato il suo nome e fissare un appuntamento. Poi ci penserà il dimostratore a convincere a comprare. L'uomo davanti a me avrà 50 anni. Mi chiede da quanto tempo vivo qui e se ho preso questo accento. Poi si accende una sigaretta e parte col monologo. Allora, c'è anche da archiviare, mandare fax, ma sono tutte stupidaggini, robe che si imparano in pochi giorni e imparano tutti. Soprattutto abbiamo bisogno di qualcuno che sia convincente al telefono e per capirlo bisogna farlo provare. Fisso di 1000 euro circa più fuori busta in nero, a seconda dei risultati. Che bravo, ce lo teniamo stretto. Ci sono due tipi di orario, uno d'ufficio e uno dalle 14 alle 22. Per imparare ci sarà un corso forse a Milano. Ti interessa? A me fa schifo stare al telefono e fa ancora più schifo cercare di convincere la gente, magari con piccoli inganni. Senza contare che lavorare fino alle 10 la sera tutti i giorni non è bello. Comunque dico che mi interessa, poi magari a casa ci penso meglio. E dico anche che non ho problemi di orario, né per il corso né per Milano. A quel punto mi congeda. Dice che in un colloquio non si capisce se una persona è seria. L'unica cosa che voleva sapere è se ho la voce troppo stridula o antipatica e se l'ho interessata. Seguirà secondo colloquio col capo dei capi. Non mi ha chiesto che lavoro ho fatto, che scuola ho fatto. Mi ha chiesto solo se sapevo usare il computer e nel curriculum ci sono 4 righe di conoscenze informatiche, tipo 12 programmi che so usare. Quando ho provato a fare qualche osservazione non mi ha fatto nemmeno finire. Insomma, non gliene fregava niente. E mentre andiamo via, candido mi dice che gli ho fatto venire in mente di chiedere alle candidate dopo di me se avevano disponibilità di orario. Io ringrazio Laura Sponzilli, che ha sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, mi ha segnalato un blog, che era un suo blog, che adesso non utilizza più, perché era un blog su cui scriveva quando era ancora precaria e quando faceva colloqui in giro per l'Italia per cercare un lavoro. Ora non lo usa più perché un lavoro ce l'ha e mi pare che abbia anche un figlio e quindi non ha più bisogno di raccontare delle sue testimonianze fatte in prima persona. Però se vi capita di andare a leggerla, se vi capita di dover fare dei colloqui in questi giorni, non è male. Si chiama Girando la precaria punto qualcosa, se lo mettete su Google lo trovate. Ho letto questo piccolo racconto di Laura e più tardi ne leggerò un altro, perché racconta esattamente quello di cui parlo oggi. In questi giorni, per diversi motivi che vi spiegherò a breve, ho a che fare con una persona che si sta preparando per fare dei colloqui di lavoro, o meglio, facciamo un passo indietro, sta cercando un lavoro e quindi il secondo passaggio è quello di fare dei colloqui di lavoro. E quindi, visto che mi sono accorto che, e mi ricordo anche che, primo, non è facile trovare un colloquio di lavoro. Secondo, quando lo devi fare è meglio tenerselo stretto, giusto? È meglio non sbagliarlo. E quindi sto cercando di creare una sorta di grande manuale per capire quali sono gli step da fare per far andare bene un colloquio di lavoro, quali sono gli errori da non compiere, quali sono le cose giuste da dire, come presentarsi, trovare un modo per farsi piacere, insomma, per sedurre la persona che sia davanti. 800 24 0024 oppure 349 238 6666 per gli SMS. Mi hanno scritto sul profilo Facebook alcuni selezionatori e alcuni invece che i colloqui li hanno fatti. Antonio è un selezionatore. Per la mia azienda faccio molti colloqui di lavoro. Se ne vedono, se ne sentono di tutti i colori. Ad esempio, spesso nella parte uso del computer il candidato scrive: so usare Windows, come se Windows fosse un programma e non un sistema operativo. La parte più divertente del lavoro è il colloquio. Spesso ragazzi si presentano con la mamma al colloquio. Questo mi sembra già da rubricare la categoria non fare. rare. Altre volte uomini oltre 50 anni si presentano al colloquio con la moglie, che ha la pretesa di assistere al colloquio di lavoro, e quando il marito fatica a rispondere alle domande, loro intervengono, dicono cose tipo: sa, mio marito fa così, mio marito sa fare questo, mio marito è onesto. Anche questo sempre nella colonnina non fare. 800 24 0024 349 238 6666. Che abbiate 20, 30, 40 o 50 anni. Mi piacerebbe che non fosse così, ma so che capita. Se avete anche 50 anni e state cercando un lavoro e quindi avete da poco fatto un colloquio, vi state preparando per un colloquio, o comunque avete in mente una o due regole di cose da fare e da non fare, creiamo questo grande manuale per capire come comportarsi a un colloquio di lavoro. 800 24 0024, 349 238 6666. Paolo mi ha scritto, ad esempio: al mio primo colloquio con un'importante azienda multinazionale, il selezionatore mi chiede: mi dica, lei farebbe le scarpe al suo capo? Io capisco che è un trabocchetto e rispondo: lei intende legalmente? Assunto. 800 24 0024, 349 238 6666. È arrivato il momento di spiegarvi perché oggi si parla di colloqui di lavoro. Natalia è giovane, è intelligente ed è piena di buona volontà. È giusto che voglia fare delle cose importanti nella sua vita. Lei vuole essere utile al prossimo, anche perché sa di essere una privilegiata e quindi non vuole stare seduta sulle spalle degli altri a fare niente. Vuole guadagnarsi quello che ha già. Vuole faticare e sentirsi a posto. E per farlo vorrebbe aiutare chi sta male. Così facendo migliorerà la percezione che lei ha di se stessa. Probabilmente è la stessa cosa che succede a chiunque decida di lavorare nel volontariato. Cioè, non è che lei sia un'invasata, una missionaria. In realtà le andrebbe bene un lavoro qualsiasi per cominciare. Ma se può scegliere, preferisce fare qualcosa che ritiene veramente utile. Ed è per questo che l'altra sera ha sostenuto un colloquio per un'organizzazione non governativa che si occupa di alimentazione nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa. Lei ha un master in cooperazione internazionale, è sveglia ed è motivata. Secondo me non prenderla sarebbe assurdo, per cui la rassicuro mentre provo allo specchio il piccolo discorso di autopresentazione. È un po' come quando mio padre mi confortava quando stavo per uscire con la mia prima fidanzata. Io non credevo di essere all'altezza, ma lui mi diceva che non ero io, era lei ad essere fortunata a uscire con me. E che se avesse avuto qualcosa da dire, sai quante ce n'erano in fila per stare con uno come me. Ammetto che ho costruito una bella fiducia su queste parole. Chissà, forse pure troppo. Comunque, nel caso di Natalie, devo dire che mi pare che si preoccupi davvero un po' troppo per una sciocchezza. Lei ha i requisiti adatti e in più è bellissima. Anzi, è fin troppo bella. Io le ho suggerito di non truccarsi per non dare la sensazione di essere una che tiene troppo al proprio aspetto e altre piccole cose che con i bambini che muoiono di fame non c'entrano proprio a niente. Ma forse l'ho fatto perché in realtà a me quei posti lì, tipo la Croce Verde o i volontari di qualsiasi cosa, mi hanno sempre dato l'impressione di cercare una buona scusa per imbroccare. Che non c'è niente di male a voler incontrare gente dell'altro sesso e scambiarsi affetto, è solo che, ecco, diciamo che Natalie di questi tempi preferirei che si facesse bastare quello che ha. La giornata di ieri l'abbiamo passata a fare ripetizioni di colloquio di lavoro. E io un pochettino ne so, perché in una delle mie vite precedenti ho lavorato nella formazione e selezione del personale, quindi un pochettino di sta roba ne mastico. Ecco perché conosco quali possono essere gli errori da compiere in un colloquio di lavoro. In più, aver fatto una scuola di recitazione mi aiuta ad avere la faccia tosta necessaria a superare anche certi momenti imbarazzanti. Un esempio di un trucco semplice ma efficace per situazioni difficili? Se hai la lingua felpata e la bocca secca per la tensione, morditi la lingua con forza. La saliva tornerà a fluire e tu sembrerai più sereno e più in controllo di Barack Obama. Il colloquio di lavoro è una performance teatrale con un pubblico molto ristretto. È un esame, è uno show, e tu devi essere pronto. Perfino se devi avere un lavoro come lo spalatore di neve, no? In fondo ci sono di mezzo dei soldi e un badile che ti metteranno in mano, e tu dovrai convincermi che lo userai per liberare le strade e non per altro. Io ne ho dovuti fare parecchi di colloqui del genere e tutto sommato ne continuo a sostenere ogni anno. Io però mi sono preparato e seguo certi principi che non starò qui a rivelare. Natalie invece è nuova del mondo del lavoro e se da una parte mi fa tenerezza quasi, mi sembra un pulcino bagnato in balia del mondo cattivo, dall'altro mi piace vederla combattere per non farsi mettere i piedi in testa e cercare di ottenere ciò che vuole. Ha letto un paio di libri sulla ricerca del lavoro, il meglio che è riuscito ad ottenere. Sulla questione colloquio c'è una lista, è una lista che recita più o meno così. 1. Se decidi di mentire su quello che sai, tieni conto che se tutto va bene, toccherà a te imparare in fretta. 2. Non contraddirti. 3. Parla di soldi, ma non nei primi 10 minuti. 4. Studiati bene il sito web e il resto della comunicazione aziendale. 5. Tieniti pronto le risposte per le domande più classiche, che sono di solito quelle che riguardano la motivazione personale. 6. Metti tutto in positivo, anche le critiche. 7. Vestiti e preparati per l'occasione. 8. Presentati a viso aperto. 9. Arriva puntuale. Ecco, non lo so perché, ma io questa roba americana la adoro. Perché è vero che è un concentrato di banalità che manco Pinocchio, ma senza una lista del genere rischi davvero di fallire. Ecco perché mi divertono tutti i libri tipo Manuale del primo appuntamento, Come farsi degli amici e convincere le persone. Perché dicono cose che saprei anche io, ma che non mi devo affaticare a ricordare. Natalie era molto nervosa per il suo colloquio e mi sono prestato a farle da spalla per una prova. Sinceramente non credo che avrà difficoltà ad ottenere il posto, sia perché se tanto mi dà tanto vedrai che sarà uno stage, ovviamente non retribuito, ma soprattutto perché lei è bellissima. Io penso che sia giusto che lei abbia timore del giudizio degli altri, perché così, quando scoprirà che gli altri sono delle persone qualunque, si sentirà molto sollevata e potrà affrontare con grande sicurezza i colloqui e le prove ben più importanti che l'aspettano nel futuro. Perché Natalie è una che farà strada, nonostante stia con me. Oggi sta cercando un lavoro e quando abbiamo fatto la prova ieri sera ho deciso che mi avrebbe convinto e che l'avrei assunta. Lei ne è stata felice e io anche. E poi è stato bello festeggiare. Ci deve essere un sacco di gente lì fuori che sta cercando un lavoro e che da tempo sta facendo dei colloqui di lavoro. Lo so, semplicemente perché vivo in questo paese, siamo nel 2011, frequento delle persone in vari ambiti della loro vita e molte di loro stanno cercando un lavoro e stanno cercando colloqui. L'ultima è stata una persona con cui gioco a calcio il lunedì sera che ha 47 anni, che lavora nel campo del turismo, ha lavorato per anni in un'azienda che è fallita e mi dice: guarda, vado a fare dei colloqui di lavoro, riesco a farne più o meno uno ogni 2 settimane e per un posto ci sono 35-40 persone. Bisogna arrivare molto preparati. È proprio per arrivare molto preparati ai colloqui che oggi avrei bisogno di sentire le storie di persone che ne stanno facendo parecchi di colloqui o che ne hanno fatti parecchi nella loro vita e hanno ottenuto quel lavoro. Vorrei da loro semplicemente dei consigli per quelli che hanno bisogno di fare un colloquio, ma anche per me che comunque non si sa mai. 800 24 0024 è il numero per telefonare, 349 238 6666 è quello per mandare gli sms. Dove mi scrivono: nel 2002 me ne andai nel mezzo di un colloquio con una compagnia di assicurazione, giocava l'Italia ai mondiali, non potevo perdermi la partita. E vabbè, e questo sempre da parte non fare. I primi 53 secondi sono determinanti per gettare il ponte, mi scrive Pierre. In certi casi è indispensabile travestirsi da uomo, invece mi scrive Lina, che è un ingegnere. Mi dica un pregio e un difetto. Ecco, un mio difetto è non saper rispondere a questa cavolo di domanda, Mimmo. E poi c'è uno che mi racconta... Eccolo qua. Ciao Matteo, sono Mauro da Milano. Lavoro in una grossa azienda del lusso ormai da 20 anni. E nel lontano 1900... Mi piacciono le aziende del lusso. Che cosa fai, azienda di lusso? E cosa fate esattamente? Yacht, diamanti... E tu quanto guadagni? Vabbè, ormai da 20 anni lavoro nell'azienda del lusso. Nel 1991 al mio colloquio di lavoro furono gli stessi datori di lavoro a chiedermi la presenza di mia madre. Così fu e ora sono qui. Ciao, complimenti. Complimenti a te e anche a loro che ti chiedono la presenza di tua madre. Ho cambiato 7 lavori. Ho fatto una marea di colloqui, però non mi sono mai posto il dilemma di come pormi nei confronti del responsabile di turno. Dicevo tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, senza tralasciare nulla, proprio nulla senza mentire. Sono Marco da Trento, 24 anni. 800240024. Prima, sempre sul profilo Facebook, mi ha scritto un ascoltatore che è dall'altra parte della barricata, perché anche questo, se ci fosse qualcuno all'ascolto che è di là e fa il selezionatore, quindi sa che cosa interessa veramente a una persona che sta cercando qualcuno per un lavoro, il numero è sempre quello. È il caso di Umberto, che mi ha scritto prima sul profilo Facebook e mi ha fatto qualche piccolo esempio, tipo il candidato che si presenta con l'amico dicendo possiamo fare un colloquio insieme, oppure il ragazzino che alla fine del colloquio dice io non sono interessato alla posizione, mi dispiace, ma scusa, perché l'hai fatto? Perché i miei genitori mi hanno detto che è maleducazione rifiutare un colloquio. Pronto Umberto? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene. Senti, dai. Che lavoro così fai? Ho anche una piccola pausa di lavoro. Che lavoro? Raccontami che lavoro fai esattamente, Umberto. Ma io esattamente faccio il ricercatore di personale, quello che viene chiamato il cacciatore di teste. Quindi per una società che fa questo di mestiere? Sì. Una società che riceve le commesse dai clienti e va a ricercare i candidati. Di qualsiasi tipo? Di qualsiasi tipo, diciamo, però principalmente impiegato, quadro dirigente come target. Ma per qualsiasi tipo di azienda, dico produzione, sì, servizi, sì. Qualsiasi? Sì, sì, sì. Per tutti quelli che mi pagano per fare il lavoro. Fammi un esempio dell'ultima azienda, magari senza dirmi il nome dell'azienda per cui hai cercato del personale e che tipo di personale cercavano. Ma allora, l'ultima per cui ho fatto una ricerca è stata un'azienda tessile che cercava un responsabile amministrativo. Azienda tessile italiana. Esistono ancora aziende tessile in Italia? Per me che sono di Como sì, esistono, sono anche abbastanza importanti. Senti, ma scusa, tu, perdoni, prima di entrare nel merito e prima di farmi raccontare qualche storia e dare qualche consiglio, tu hai notato chiaramente una flessione nella ricerca del personale negli ultimi anni, facendo il tuo lavoro? Sì. Oppure sì? Clamorosamente nel 2009 praticamente non veniva ricercato nessuno. Adesso la gente sta ricominciando a cercare lavoro e le aziende stanno ricominciando a cercare gente. Senti, e invece per quanto riguarda le aziende, i metodi per la ricerca di personale saranno chiaramente, ce ne saranno altri oltre al tuo, no? Oltre ad affidarsi a un cacciatore di teste? Ah, purtroppo sì. E quali sono? Tendenzialmente il passaparola della persona che arriva dicendo mi hanno segnalato questa persona che secondo me è già bravissima. Oppure usano moltissimi siti proprio ormai le aziende. Tu da quant'è, te lo sei inventato questo lavoro oppure sei andato a lavorare per una società e poi l'hai... No, ho cominciato a lavorare per una società di famiglia, diciamo così, okay. Perché mio padre ha sempre fatto questo lavoro, grosso modo, e io ho cominciato a lavorare con lui 10 anni fa facendo uno stage e poi adesso sto continuando. Senti, dammi 3 consigli da dare a una persona che sta cercando lavoro, che siano generici chiaramente perché varranno, immagino, per diverse tipologie, ma proprio per quanto riguarda uno che si siede di fronte a te. Ma la prima cosa che io consiglio è di essere assolutamente tranquilli, perché è la cosa che più mi colpisce, quando vedo una persona che è rilassata e si sa mettere a suo agio, significa per me che tendenzialmente avrà meno difficoltà quando poi andare in un posto di lavoro. Però questo non garantisce la bontà della preparazione, no? No, però la persona dovrebbe arrivare già convinta di essere la persona che va bene per quel posto. Ok, dammi un altro di esempio. La seconda cosa è di essere sinceri, perché poi bene o male tutte le balle che vengono raccontate in un colloquio poi escono. Senti, invece... è meglio che escano subito piuttosto che escano davanti al titolare di un'azienda. Senti, invece un colloquio o una persona che hai colloquiato, si dice, non credo, si dica, che ti è rimasto particolarmente impresso. Ah, oddio, me ne sono rimasti impressi tanti, perché ci sono uno che mi ricordo particolarmente, è stato uno con un direttore del personale di una notissima azienda italiana, nel fare il quale io ero molto imbarazzato, perché questo dei cinquantenne, al confronto del quale io mi sentivo l'esaminato. Okay. E che alla fine mi ha telefonato dopo 3 giorni per farmi complimenti per come era andato il colloquio, che si era sentito molto a suo agio. E quindi ti aveva promosso. Grandissima soddisfazione. Umberto, grazie mille, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Crepi. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. 800240024, consigli per i colloqui. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in un caseificio, oserei dire, così a naso, a occhio soprattutto. Il protagonista della foto è anche quello che se l'è scattata, è un ragazzo, un signore con una bella faccia simpatica, un cappello in testa rosso, barba, occhiali, ha un'aria molto orgogliosa di sé o di quello che fa, ma al suo fianco, a destra e a sinistra, bancali e bancali e bancali di forme di parmigiano reggiano, credo. Valerio Ferrari, 37 anni, tutto l'anno a 17 gradi, in un magazzino di stagionatura di grana padano, nella bassa bresciana. Io sono qui. Grana padano, non parmigiano reggiano, chiedo scusa, però è anche un po' difficile capirlo da una fotografia. La fotografia è sul sito radio24.it, la pagina Io sono qui, invece molto altro lo trovate sul profilo Matteo Caccia, Io sono qui di Facebook. Vi leggo qualche altro messaggio. A me hanno detto: lei è troppo professionale per noi. Alberto, questo credo sia purtroppo un classico. Non ho mai capito bene il perché, ma un mio amico che di mestiere fa colloqui dice di non appoggiare mai i gomiti sul tavolo. Per un semplice motivo, perché è maleducazione. Andiamo però, visto che si parlava di associazioni no profit, andiamo subito da Alberto da Monza, che dirige un'associazione e fa un sacco di colloqui. Pronto Alberto? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? No, ma io sto bene, grazie. Senti, mi sa che devi spegnere o abbassare la radio però, perché mi sento due volte. Senti, che tipo di associazione guidi, dirigi Alberto? No, mi sa che io ti avevo detto la radio però, Alberto, non il telefono, perché altrimenti così andiamo un po' in cortocircuito. Allora facciamo così, andiamo da Stefano a Milano. Pronto Stefano? Ciao. Ciao, tu ci sei. Allora anche tu, mi raccomando, no. non buttare giù il telefono, al massimo abbassa la radio se non l'hai ancora fatto. Tu hai fatto un centinaio di colloqui tu? Sì. Per cosa? Ma per sempre per posizioni riguardanti le mie esperienze nel commerciale. Ok. Perciò nel momento in cui ho sentito l'esigenza di cambiare lavoro, ho lanciato il sasso nello stagno e lì mi sono incominciato a piovere. Telefonate su telefonate, a fare colloqui. Scusami, ma perché tu hai un profilo particolarmente alto, sei particolarmente bravo? No, però ho esperienza in un determinato campo. Qual è Stefano? Qual è sto campo? Classico campo del capo area aziendale, che perciò deve gestire un budget di fatturato e lavorare sì, Stefano, insieme a tante persone. Ma di cosa parliamo? Di che prodotti, di che servizi? Vendita di beni, di qualsiasi campo. Niente, non me lo vuoi dire Stefano. No, guarda, io lavoravo nel campo dell'oreca, ho lavorato nel casalingo, ho lavorato nella chimica. Senti, dimmi perché lo dicevi prima probabilmente alla ragazza al centralino, dimmi qual è la cosa più assurda che ti hanno chiesto a un colloquio. La cosa più assurda è stato sempre per un'azienda italiana molto conosciuta nel settore dei casalinghi, mi sono presentato al secondo colloquio, sì? Che era con il vicepresidente di questa azienda e mi sono trovato seduto alla scrivania con questo ragazzo di 22-23 anni, praticamente. Che era E cosa ti ha chiesto? Il voto del fondatore praticamente non ha fatto nulla, era lì muto, allora ho detto vabbè, non sprechiamo l'occasione, mi auto-intervisto, gli ho raccontato vita, morte e miracoli, clienti, contatti, esperienze. Sei partito e hai fatto tutto da solo. Stefano, grazie mille, buona giornata. Ciao. Non riusciamo a ribeccare Alberto da Monza, credo, ma andiamo da qualcuno che sta andando a fare un colloquio in questo momento. Pronto Carlo? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo. Senti, tu sei rilassato, in auto e stai andando a fare un colloquio per che cosa? Per un posto di lavoro nuovo, è il secondo colloquio che faccio. Nel senso, ho fatto prima un colloquio con il cacciatore di teste, diciamo come il signore che aveva chiamato prima. Sì, sì. E adesso sto andando a fare il secondo perché sembrerebbe che questa azienda è interessata e quindi andiamo a fare il secondo. Dimmi che azienda è. No, non posso. Dimmi di che cosa tratta almeno. Non posso, per scaramanzia, mettiamola così. No, va bene, ok, facciamo così. Dimmi solo che tipo di lavoro... Praticamente il solito mezzo utensili, ecco, mettiamola così. Senti, cosa ti hanno chiesto al primo colloquio? Come ti sei comportato? Tutto. mi hanno chiesto tutto, da quanto prendo, quante ore faccio, i miei colleghi come sono, il mio capo com'è. Domande personali, perché c'erano un sacco di messaggi che scrivevano soprattutto le donne, che dicono che fanno un sacco di domande di tipo personale per capire fondamentalmente se hai intenzione di fare figli oppure no. Ti hanno fatto domande personali alle quali avresti preferito non rispondere oppure sei andato liscio? No, sinceramente no. No, non mi hanno fatto domande che personali. Cosa fai? Che lavoro fai adesso, Carlo? Io sono un tecnico d'assistenza. Ma al posto di lavoro sanno che stai facendo colloqui in giro? Sì. Loro mi dovranno portare via da qua. Come ti dovranno portare via da qua? Nel senso, mi dovranno fare una proposta che mi fa dire No, scusami, okay. Carlo, io sto parlando del tuo, diciamo, attuale posto di lavoro. Se loro sanno che stai facendo colloqui. Assolutamente no, infatti spero che nessuno dei miei colleghi sia all'ascolto, perché magari mi riconoscono. Senti, hai dormito sereno stanotte? Serenissimo. Senti, i consigli di tua mamma quali sono stati? Di levarmi l'orecchino. Vabbè, però questo pure il tuo capo attuale te l'avrebbe detto, mica ci voleva tua madre. Ma io sono praticamente, ho 35 anni, lavoro da praticamente 20, e l'ho sempre avuto, e ai colloqui l'ho sempre tenuto. Quindi che forse è meglio ascoltare il consiglio di mia mamma stavolta, non si sa mai. Carlo, senti, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Facci sapere, sì. Scrivimi una mail anche. Io sono qui, @radio24.it, per sapere com'è andato, ok? Va bene, ok. Ciao, Carlo. Grazie a te. Prima avevo letto un pezzo di un racconto che riguardava una serie di colloqui che Laura, che aveva un blog, ha scritto, e adesso ve ne leggo un altro. Primavera 2005. L'annuncio non me lo ricordo bene. Penso fosse una generica ricerca di personale commerciale, senza precisi limiti di età o di esperienza. Telefonai e mi dissero di presentarmi l'indomani. La receptionist mi chiese il curriculum e mi disse di attendere nell'altra stanza. Nella stanza stavano aspettando almeno una dozzina di persone, alcune in piedi, altre sedute. La stanza non aveva un mobile né un quadro, tranne qualche sedia e un tavolino. Sul tavolino un piccolo stereo con musica a palla. Nessuno parlava. Guardavano il vuoto, uno teneva timidamente il ritmo col piede, altri fissavano il telefono come se fosse un Tamagotchi. Ho pensato, questa è una candid camera. Ho pensato, ma perché nessuno abbassa questo volume da discoteca? Ho trovato una sedia e mi sono messa a leggere il giornale. Ero l'unica che aveva qualcosa con cui ammazzare il tempo. Diedi una rapida occhiata allo schermo, sembrava che la manopola tonda per il volume semplicemente non ci fosse. Dopo una discreta attesa mi chiamarono. La ragazza con cui parlai mi raccontò di un ambiente dinamico, di aziende che avevano bisogno dei loro piani tariffari, di gente interessante come me, ma di una selezione impossibile da fare su due piedi. Meglio fare un periodo di prova domani. Così noi possiamo provare e voi potete vedere se qua vi piace. Le canoniche 8 ore, dalle 9 all'1 e dalle 2 alle 7. Che non sono 8 ore, ma non glielo spiegai. Ero contenta che mi avessero selezionato, anche solo dal curriculum, ma avevo un sacco di dubbi. Ok, la selezione sul campo, ma fare che? E poi per quanti giorni? Mi aveva già spinta fuori dalla porta prima che potessi articolare una domanda. Ecco a cosa serviva. La musica ad alto volume. Serviva ad allentare i riflessi. Mi sembrava tutto troppo assurdo. E non ci andai. Grazie a Laura Sponsilli e al suo blog Girando la Precaria, trovate tutto quanto sul profilo Facebook Matteo Cacci, io sono qui. Grazie a Tiziano Bonini, a Laura Faggin, a Pietro Lacorte e a Stefano D'Andrea. Vi voglio lasciare con un ultimo consiglio che mi ha scritto Marco, che mi sembra un consiglio un po' astruso e che quindi mi piace. Oltre al titolo e alla teoria, altro valore aggiunto è quello di dimostrare che si sa fare, che si è fatto anche per breve tempo, un lavoro manuale o comunque qualcosa in cui la fatica e la disciplina nello sforzo fisico e nell'abilità manuale erano parte importante. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?